A bordo campo di Dario Ricci. Allo stadio del nuoto a Roma, una stella di cristallo ricorda i giovanissimi azzurri che perirono nella sciagura aerea di Brema. È stata appena scoperta all'inizio del trofeo Sette Colli, prima manifestazione internazionale a cui la squadra azzurra partecipa dopo la fatale giornata di Brema. Buongiorno, benvenuti a bordo campo. Ce lo ricorda questo filmato, quest'audio dell'Istituto Luce? Era il luglio del 1966, si parla di nuoto, si parla del prestigioso trofeo del Sette Colli, si parla anche di una tragedia che lo sport italiano aveva scelto di ricordare con una stele. E a bordo campo oggi si parla di questa storia, della storia di questa stele e della storia di quella che purtroppo è stata una delle pagine più tragiche del nostro sport e del nostro nuoto, la tragedia di Brema. Buongiorno e benvenuto in studio ad Aronne Anghileri, giornalista della Gazzetta dello Sport e uno dei maggiori conoscitori del nuoto italiano e mondiale. Buongiorno. Perché Aronne Anghileri oggi qui a bordo campo? Perché proprio con lui vogliamo ricordare quello che furono gli avvenimenti di quei giorni tra il 28 e il 30 gennaio del 1966. Molti giovani della nazionale azzurra di nuoto stavano per partire da Milano verso quello che era l'importante meeting di Brema in Germania, uno dei più prestigiosi appuntamenti internazionali per il nuoto di allora, e Aronne, tu eri con loro, hai avuto modo di incontrarli. Sono stato con loro per ore quei due giorni. Quello di Brema era il più importante meeting che si faceva allora, durante l'inverno, in una piscina molto piccola, graziosa, di Brema, la Central Bad, sole 5 corsie, con il pubblico che sedeva addirittura quasi con le gambe dentro l'acqua, riparato da teli contro gli spruzzi, e un organizzatore molto vivace, Fricke, che era... chiamava lì nuotatori migliori da tutte le parti del mondo, Australia, America, Giappone, ed era il maggior avvenimento appunto europeo dove gli italiani sono andati per molti anni. Era una nazionale italiana che era uscita dalle Olimpiadi di Tokyo 64 con dei risultati incoraggianti, conseguito alcune finali nelle staffette, in tre staffette, e i ragazzi che stavano per partire per Brema via Milano erano un po' il fiore all'occhiello di questa squadra: Sergio De Gregorio, Bruno Bianchi, Amedeo Chimisso, Luciana Massensi, Dino Roda, Carmen Longo, Daniela Samuele, e poi il tecnico Paolo Costoli e anche un telecronista, una voce nota dello sport italiano, Nico Sapio. Che squadra era quella che stava andando verso Brema? Beh, era la squadra che pochi mesi prima, a settembre, aveva vinto a Roma il Sei Nazioni dell'Europa Occidentale, cioè una gara a squadre alla quale partecipavano la squadra sovietica e quelle dell'Est, ma tutte le migliori squadre dell'Ovest: Italia, Francia, Spagna, Gran Bretagna, Svezia. In quell'occasione l'Italia aveva vinto, sia pure con qualche errore di formazione, per un solo punto alla fine aveva vinto questo Sei Nazioni. Era il miglior momento tecnico che l'Italia viveva dal 1958, quando si era vinto alcune medaglie ai campionati europei a Budapest. Insomma, tutte le grandi promesse di quella squadra erano pronte per sbarcare a Brema e mettersi in luce. Tu incontrasti quei ragazzi e i loro tecnici proprio qui a Milano, vero? Perché era un po' lo snodo chiave per poi arrivare a Brema. La squadra doveva partire il mattino, mi pare verso le 10. Il terminal era allora alla stazione centrale, l'appuntamento era lì. Loro avevano dormito la notte in un albergo, l'hotel splendido, di fronte alla stazione centrale. Io la sera prima, mentre dalla Gazzetta andavo a casa per cena e passavo lì davanti, mi sono fermato, ho parlato con alcuni di loro che erano già arrivati, eccetera. Poi ho visto arrivare da Torino Rora, che era stato primatista europeo dei 100 dorso, e Bianchi, che era stato finalista olimpico in due staffette a Roma 60 e a Tokyo 64 ed era il capitano della squadra. Mi hanno invitato, stai a cenare con noi qui? Dico no, c'è mia moglie che mi aspetta. Sono stato a tavola con loro mentre mangiavano, abbiamo chiacchierato, mi hanno fatto le loro confidenze. Mi conoscevano da anni, mi davano tutti del tu. Con Bianchi avevo addirittura diviso la camera una notte ai campionati europei del 58 a Budapest. Insomma, avevamo veramente stretti contatti d'amicizia. Poi li ho salutati, ci vediamo domani mattina. L'indomani mattina, appunto, si deve partire per Brema, ma ci sono subito dei problemi, no? Sono andato al terminal per salutarli, per parlare con loro, eccetera. Ho trovato l'allenatore Paolo Costoli, che era il più grande campione d'anteguerra, che aveva vinto medaglie agli europei negli anni 30, ed erano lì molto preoccupati perché c'era nebbia a Linate, i voli non partivano, per cui si è prolungata la loro presenza lì. Siamo stati lì, abbiamo chiacchierato del più e del meno. Mi ricordo De Gregorio, che in quel momento era il più bravo della squadra perché era l'unico che aveva il terzo tempo europeo nei 200 stile libero. Aveva un soprabito molto leggero, mi ricordo color cammello. Gli dissi, ma tu vai a Brema, sei pazzo con un soprabito così leggero. Lì fa molto freddo, dovresti coprirti di più. Era il clima di una festa che preludeva proprio il grande appuntamento agonistico. Chiacchiere che si fanno fra amici, eccetera. Poi, visto che la squadra non partiva, telefonai al presidente della Federazione Nuoto, che era Parodi. La sua casa era davanti alla stazione centrale. Si è alzato, si è vestito e è arrivato con un programma di viaggio perché questi viaggiassero con le cuccette, il vagone letto, non ricordo esattamente, per arrivare a Brema la sera del giorno dopo. Quindi l'ipotesi del viaggio in treno, ma è chiaramente molto faticoso, molti lo rifiutano e si sceglie quindi di andare in aereo. Si vola da Linate a Zurigo, poi a Francoforte, ma il destino è in agguato perché si perde la coincidenza con quello che era stato il volo prenotato e la squadra sale sul successivo Convair della Lufthansa. Hanno allungato il viaggio passando da Zurigo, hanno perso la coincidenza, hanno dovuto prendere l'aereo successivo. Quello che dovevano prendere loro è arrivato regolarmente. Quello che hanno preso è precipitato in fase d'atterraggio, non si è mai capito bene perché, ma sono morti tutti 47 persone. Le prime notizie del disastro cominciano ad arrivare a sera nelle redazioni dei giornali. Tu come apprendi la notizia? Dunque, io non sono andato a Brema quella volta perché ero impegnato poi a Genova per la Coppa Campioni, che il Recco faceva un girone eliminatorio. E ci fu prima una partita di una squadra russa e allora io andai al telefono per trasmettere poche righe su questa partita che precedeva quella più importante del Recco. Come vado al telefono? Dalla Gazzetta mi dicono: il direttore vuol sapere cosa sa lei dell'aereo caduto a Brema. Non sapevo assolutamente niente, nessuno li sapeva niente. Diedi queste poche righe di servizio, poi mi spiegarono: guarda, è caduto un aereo a Brema. Di fatto quella tragedia cancella la meglio gioventù del nuoto italiano. Il 2 febbraio del 1966 l'Italia si stringe intorno a questi campioni vittime di questo destino. A Roma, nella Basilica dei Santissimi Apostoli, i funerali ufficiali. Nella Basilica dei Santi Apostoli, i feretri delle vittime italiane della sciagura di Brema sono stati portati nel primo pomeriggio. C'era nella chiesa la tenue luce dei normali lampadari delle candele. Atleti in tuta olimpica e giovani dell'Istituto di Educazione Fisica hanno scortato le 9 casse nell'interno, al centro della navata. Ognuna è avvolta nella bandiera bianca con i 5 cerchi, la bandiera pacifica, universale dei Giochi d'Olimpia. Su ogni feretro è posto un cuscino di rose, garofani e gigli con un nastro azzurro, il colore della maglia dei nazionali, con la scritta Comitato Olimpico Italiano, e targhette con i nomi, le date di nascita di ciascuno. Sono allineati oggi in questo ordine: in prima fila la Massensi, la Longo, la Samuele; in seconda fila Rora, Bianchi, De Gregorio; in terza fila l'allenatore Costoli, la recluta Chimisso, il nostro collega Sapio. I 9 sportivi caduti nei loro tumuli, quasi a formare un quadrato, sono vegliati da 4 campioni del nuoto in piedi, dritti, immobili agli angoli. La voce indimenticabile di Paolo Valenti ci ricorda questa pagina dolorosa dello sport italiano, in quei giorni il cordoglio dell'Italia per questo dolore e anche una stele per ricordare questi giovani strappati alla piscina, alla vita, ai loro successi. Una stele che viene costruita proprio nello stadio del nuoto di Roma, ma a Ronne una stele che però rimane in piedi ben pochi mesi, vero? Sì, purtroppo la stele era bella, elegante, ma fatta in cristallo e quindi fragile. Fu inaugurata durante il meeting importante dell'estate successiva, il trofeo Sette Colli. Mi ricordo la squadra tedesca quasi umiliata perché lì rappresentavano la nazione dove quell'aereo era caduto per colpa, forse per trascuratezza, non si sa, della loro compagnia aerea. Fu inaugurata quella stele, io ero lì. Che fine fece quella stele? Fece che durante l'inverno non si sa bene, quando la piscina era chiusa, quindi non si è saputo esattamente il giorno, ci sono passati dei vandali che l'hanno distrutta e non è stata mai più ricostituita, mai più riproposta. Sono 43 anni che quella stele è stata distrutta e ancora non è tornata al suo posto. In questi giorni che ci avvicinano, che ci accompagnano verso i mondiali di nuoto di Roma 2009, la tua penna è tornata a chiedere un gesto semplice ma simbolicamente prezioso, che quella stele torni al suo posto. Beh, ho colto l'occasione dei campionati mondiali che ci saranno a Roma adesso a cavallo fra luglio e agosto per proporre che quella stele venga ridata a memoria di questi ragazzi caduti 43 anni fa. Per un po' sono stati zitti il CONI, la federazione, eccetera, e poi hanno preso l'impegno di farla e stanno provvedendo a farla non più in cristallo, ma non so in quale metallo, perché non sia più annientabile da eventuali vandali che ci sono adesso più di 40 anni fa. Che nessuno si azzardi più a toccarla, quella stele, ma comunque l'affetto e la riconoscenza che l'Italia porta per quei ragazzi scomparsi quel giorno a Brema sicuramente è più grande e più forte di qualsiasi gesto vandalico e di qualsiasi metallo. Grazie a Ronne Anghileri per essere stato ospite qui a Bordo Campo. Grazie a voi che mi avete consentito di ricordare queste cose. A Bordo Campo. Crystal Palace, Crystal Palace. E allora, quello che sentite in sottofondo è l'inno del Crystal Palace, nobile decaduta del calcio inglese che gioca a Selhurst Park, lo stadio appunto del Crystal Palace, periferia sud-est di Londra. Ebbene, Selhurst è esattamente come ci si immagina uno stadio inglese. 26.000 posti, raccolto con le pubblicità del barbiere e del giornale locale, trasuda simpatia, imprese e passione. Io sono l'unico non inglese. Beh, benvenuti a Bordo Campo, quel non inglese che ha calcato quel prato, quell'erba e ha tirato anche qualche calcio al pallone è Luigi Bolognini. Buongiorno Luigi. Buongiorno anche agli avversari calci. Ma... Adesso ci arriviamo a questa battaglia sul campo di Selhurst Park. Luigi Bolognini, giornalista di Repubblica, amante del buon calcio e appassionato del grande sport, scrittore anche, ricordo un bellissimo libro sulla grande Ungheria, La squadra spezzata, una lettura veramente da consigliare. E Luigi, calciatore per un giorno con la maglia del Crystal Palace, no? Mm-hmm. Come mai, ammettiamolo, noi siamo grandi appassionati di calcio inglese in particolare, ma insomma i nostri ascoltatori non lo possono fare, ma a vederci tutto sembriamo meno che calciatori, no? Mm-hmm. Tu invece hai avuto questa possibilità, giocare con la maglietta del Crystal Palace una partita su quel prato e divertirsi in amicizia, in simpatia. Com'è sì. nata questa possibilità? Ma è una possibilità che in realtà hanno tutti, è semplicemente molto poco nota al di fuori dell'Inghilterra. C'è un'associazione che si chiama Football Aid, che ha un sito internet che è footballaid.com, che è praticamente l'associazione benefica dei club calcistici inglesi. Quindi ogni squadra mette a disposizione per una partita all'anno il proprio campo, proprio il campo vero, per cui Selhurst Park, ma anche Anfield Road, Old Trafford, tutti gli stadi mitici inglesi, mette a disposizione di partite giocate da persone qualsiasi. Come si scelgono queste persone? Sono quelle che pagano di più il denaro. Ecco, perché insomma è un posto che va conquistato e, a suon di sterline. A suon di sterline, per fortuna non solo con le capacità calcistiche, altrimenti già saremmo fuori noi due. Però tutto sommato invece quel posto possiamo conquistarlo come? Ma allora, andando su Football Aid e vedendo l'elenco delle partite, si sceglie la squadra che più si ama, si vede quando gioca, quindi si vedono anche le disponibilità proprio personali di tempo, e poi si vedono i ruoli liberi. Ci sono 22 ruoli, ovviamente, c'è la squadra di casa che gioca con la prima maglia, la squadra di trasferta che gioca con la seconda maglia. Si vede il ruolo preferito e si fa un'offerta. Dopodiché, se c'è qualcuno che fa un'offerta maggiore, si può rilanciare. Insomma, il metodo è quello di eBay, per stare sempre sui siti internet. Quindi c'è un'asta online e di fatto chi riesce a conquistare la maglietta conquista anche il posto in campo. Conquista il posto in campo, ma i ruoli sono quelli classici, per cui il 7 è l'ala destra, l'11 è l'ala sinistra, il 5 è lo stopper, eccetera, eccetera. Io ho conquistato la maglietta numero 15 del Crystal Palace, 15 perché ci sono anche un po' di riserve. La mia tattica è stata, visto che il fisico mi assiste e non mi assiste, di prenderli per stanchezza e di entrare nel secondo tempo. Hai puntato subito alla panchina, almeno capisco un po' l'atmosfera e mi studio gli avversari. Di fatto quindi c'è quest'asta, si comprano queste magliette e la Football Aid raccoglie, immagino, una somma interessante che poi come viene utilizzata? Viene utilizzata nella lotta per il diabete, sia per il diabete giovanile sia invece per progetti di assistenza a malati di diabete. Nella mia occasione, dunque, io ho pagato la maglietta circa 150 euro e in totale, ci hanno detto alla fine, sono state raccolte 7.000 sterline da quella partita, quindi insomma qualcosina di buono l'abbiamo anche fatto. Si va con la maglietta di gioco, nel tuo caso la numero 15, ci si presenta... No, la maglietta si trova nello spogliatoio. Uno arriva allo stadio dicendo sono Pinco Pallino, viene fatto entrare, va nello spogliatoio e nello spogliatoio ci sono tutte le magliette appese e ogni maglietta ha il numero e il nome, quindi io sapevo la 15 Bolognini dove era il mio posto a sedere, avevo la mia maglietta e me la sono indossata e sono andato ad allenarmi prima. Immagino che sia già incorniciata questa maglietta. Adesso è in lavanderia, prossimamente sarà incorniciata, anche se mi auguro di usarla ancora in futuro con gli amici, ma insomma non mi chiamano, ho dovuto fare così per giocare una partita di calcio, vedete voi. Beh, bella rivincita, perché insomma lo scenario era di prim'ordine. Tra l'altro scrivi nell'articolo in cui su Repubblica hai raccontato questa giornata del tutto particolare, non si trova solo la maglietta lì nello spogliatoio dello stadio vero, proprio come i grandi campioni, ma si trova anche un allenatore, no? Insomma, qualche minimo rudimento tattico viene dato. Una delle caratteristiche di Football Aid è che a tutte le partite ci sono quelle che loro chiamano leggende, cioè degli ex giocatori professionisti di quella squadra. Se hanno ancora un'età accettabile, giocano essi stessi. Se no, fanno gli allenatori e ci danno un po'... un pochino un'inquadratura, insomma, la mia consegna tattica, dilla tu. Ecco, leggo testualmente: arriva Jim Cannon, grande stopper anni 70 e 80, e ci dà due dritte tattiche. La mia: stay in the middle and never let him go. In any way, stai nel mezzo e non ti spostare mai in qualsiasi modo e non lasciarli mai passare in nessun modo. In nessun modo, come si diceva con un vecchio detto del catenaccio italiano, quando vedi qualcosa che si muove sul campo, tu picchia, se poi il pallone, pazienza. Certo, senti, immagino grande emozione nel vedersi uno stadio che abitualmente magari da giornalista racconti dalle tribune, vederlo a partire dall'erba è un'altra cosa. Ah no, è bellissimo. Poi questo stadio, appunto, come dico, è piccolo, è colorato, è bello, non lo so, è proprio una bella emozione. Il pubblico non c'era, c'era un centinaio di persone che erano gli invitati dei singoli giocatori, perché è una cosa solo a inviti quanto a pubblico. Io non avevo portato nessuno perché non ho voluto lasciare testimonianze della mia prestazione, però anche quei 100 si facevano molto sentire ed erano molto calorosi, quindi è stato proprio bello. Poi l'altoparlante, appunto l'inno che abbiamo sentito, l'altoparlante che dice il tuo nome, gli applausi e poi la partita, insomma. Senti, guarda, ti faccio un piccolo regalo, te lo faccio risentire un attimo quell'inno. Crystal Palace, where eagles fly. People never Eccolo qua, ancora emozioni al microfono, però Luigi non possiamo girarci troppo intorno, perché questa partita, dici com'è andata, dici anche come ti sei trovato, considerando che poi tutti i partecipanti, magari qualcuno era un ex calciatore, altri magari però appassionati come te. Erano persone qualsiasi, ero come dicevi prima l'unico straniero, ma addirittura secondo me, non ho fatto proprio domande a tutti, ma l'unico non di Crystal Palace, perché questo è una cosa che chiaramente poi viene sfruttata soprattutto dai tifosi della squadra per scendere in campo, per cui persone che hanno sofferto perché il Crystal Palace quest'anno ha un po' traccheggiato nella Premiership inglese, è un po' lì a metà classifica, quindi hanno approfittato per sfogarsi e per giocare, gente di tutta l'età, dai 20 ai 60-65 anni, c'era anche qualcuno più largo di me, di spalle, questo mi ha molto confortato, soprattutto uno che sembrava veramente la mia custodia, come se fosse un contrabbasso, che è stato il mio compagno di coppia centrale, quindi facevamo veramente una coppia di spessore, se vogliamo dire così, però giocava meglio di me. Io me la sono, oddio, diciamo che ho fatto tutto il mio possibile e quindi questo agli inglesi è bastato perché mi venissero lì, mi si complimentassero, eccetera. La mia prestazione è stata un po' quello che è stata, però perdevamo 3-1 alla fine del primo tempo, alla fine del secondo abbiamo perso 6-3, quindi comunque 3 gol con me, 3 gol senza di me. Non però è... l'attacco ne ha beneficiato, diciamo. L'attacco così. Ne ha beneficiato, diciamo che ho usato un po' i gomiti, ecco, adesso si può dire perché l'arbitro non ci sente. Però ecco, questo è il bello, io usavo i gomiti contro questo centravanti che si chiamava Tony Combs ed era un quarantenne tracagnotto, però anche veloce, usavo i gomiti, lo buttavo a terra, gli facevo gli interventi sulle caviglie e questo si alzava e rideva. E quando gli dicevo, ma insomma stai un po' fermo, cavolo, questo continuava a muoversi anche quando non aveva il pallone, gli dicevo fermati e lui mi dice it's my dream, è il mio sogno, e credo che questo sia un po' lo spirito della cosa, cioè veramente si va lì e ci si diverte, e questo è un po' veramente la differenza fra un'esperienza calcistica inglese e un'esperienza calcistica italiana. Leggo ancora dal tuo articolo: lo sciagurato Tony mi ha sgusciato via tipo sapone in vasca e un gollettino, lo ammetto, sulla coscienza ce l'ho. Ma i miei compagni dopo ogni azione vengono a incoraggiarmi, a battermi sulla spalla. You are doing your best, grit. E poi, alla fine, pinta collettiva di birra alla spina. Indolenzito ma vivo, torno a casa sognando che un altro calcio è possibile. Ma in Inghilterra. Ecco Luigi, tu che lo segui da vicino il nostro calcio, perché questo calcio lì è possibile e qui da noi ancora no? Il calcio di Serie A è così perché è così l'Italia, diciamo, e quindi anche il calcio dilettantistico, ma proprio a livello amatoriale, di partite fra di noi, è così. Io quando andavo a giocare con i miei amici, regolarmente vedevo finire le partite in un bagno di sangue, di insulti, perché al primo fallo subito, hai fatto apposta, di qua, polemiche, litigi, eccetera. Tutto questo per delle partite della domenica a scapole ammogliate o giù di lì, che poi è il livello di queste partite come questa di Football Aid. Da questo punto di vista, cioè, il problema dell'Italia è che manca una cultura sportiva sia a livello agonistico che a livello dilettantistico, temo. Per cui non vedo un'esperienza del genere trasportabile in Italia, anche perché facciamo conto che si faccia una cosa del genere e si vada a giocare a San Siro o al Comunale di Torino o al Ferraris. A parte le botte in campo, eccetera, alla prima zolla di Velta le società si mettono a fare causa ai giocatori. E lì invece potevamo tranquillamente arare, come ho fatto io stesso, il campo di Crystal Palace e nessuno ci diceva niente. Beh, Luigi Bolognini, lasciamoci così con questo sogno realizzato, con questa bellissima giornata, ma anche con la speranza che almeno raccontarlo possa servire a far venire qualche idea a qualcuno e magari... Insomma, io mi auguro, è aperta a tutti, ripeto, oltretutto si fa del bene sia ai malati di diabete per lo specifico della beneficenza, sia a se stessi perché fa bene all'anima, insomma, al fisico un po' meno perché, insomma, diciamo che i miei tendini per un po' hanno avuto di che protestare, però va bene, insomma. Allora, grazie a Luigi Bolognini, giornalista, collega di Repubblica e, lasciamelo dire Luigi, stopper del Crystal Palace almeno per un giorno. Per mezza partita.